Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, buon lunedì. Sì, lunedì è sempre difficile ricominciare, capitano le peggio cose, sì, ma questa sera a Villa Doria Pamphili a Roma invece si apre uno spettacolo particolare, Le notti dell'avvocato Guerrieri, Gianrico caro figlio on tour, si direbbe. Allora, caro figlio, un personaggio un po' poliedrico, senatore del PD, lo dobbiamo dire per politically correct, scrittore e adesso anche attore nei panni dell'avvocato Guerrieri. Che cosa succede stasera, senatore caro figlio? Buon pomeriggio a tutti, succede che facciamo un gioco che per me è molto divertente, insomma anche spericolato per qualche aspetto, e cioè con mio fratello che fa il regista ed è in scena e con un gruppo di bravissimi musicisti jazz, tentiamo un esperimento di musica e parole combinate fra loro, non nel senso che si canti, ben inteso, nel senso che ci sono tutte parti recitate e musica che si integra con queste parti recitate, con queste letture. Quindi sono i concerti nel parco che partono questa sera, lei con i Chelsea Hotel veste i ruoli dell'avvocato Guerrieri, ma nella sua carriera anche c'è il fatto di essere stato un magistrato. Come si trova un magistrato a vestire i panni di un avvocato? Ma io posso dire che scegliere un avvocato come protagonista di alcuni dei miei romanzi, e comunque del primo, è stato in maniera involontaria un modo di acquisire un punto di vista che altrimenti non avrei avuto, e quindi forse è un modo per dire cose più interessanti. Se uno racconta delle storie dal suo punto di vista abituale è molto facile che non riesca a cogliere alcuni dettagli che spesso sono la cosa più importante nella narrazione di storie. Se si cambia il punto di vista, se si acquistano quelli che Proust chiamava gli occhi nuovi, allora si vedono cose spesso invisibili, e delle cose invisibili è fatta la scrittura di buone storie, quindi mi ci trovo abbastanza bene. Allora, è un avvocato che indaga nell'animo umano, potremmo dire così, e nella Bari notturna, che cosa succede in scena? Ma in scena succedono molte cose, ma posso dire quello che a me piace più di tutto in maniera un po' infantile? Assolutamente sì. Io non sono un musicista e purtroppo non ne ho le qualità. Essere lì in mezzo assieme a un gruppo di jazzisti di primissimo ordine, essere cioè nel mezzo della musica, ecco, per me quella è la cosa più straordinaria e, se posso dire, addirittura eccitante. Quando loro suonano mi sembra di partecipare, visto che sono parte di questo spettacolo, anche alla musica come parte attiva, e devo dire, forse soltanto per questo ne varrebbe la pena, mi diverto molto. Noi ricordiamo questa sera, il 12 luglio, ore 21 a Villa Doria Pamphili, ma il 17 sarà a Marina di Pietrasanta alla Versiliana Festival, il 31 luglio a Genova al Porto Antico, il 9 settembre a Verona al Teatro Romano. Esatto. Per chi non potesse vedere caro figlio on stage, lo può anche leggere però, perché in libreria sugli scaffali delle librerie c'è un suo romanzo, no, una raccolta di racconti, Non esiste saggezza. Si è parlato di questi racconti di sensibilità femminile, lei sente questa sensibilità? Ma intanto a me fa molto piacere sentirmi dire una cosa del genere. Quando questo libro è uscito, qualche lettore, diciamo, avveduto, qualche critico, ha fatto questo tipo di riflessione, dicendo che alcuni di questi racconti sembravano scritti da una donna, il che mi ha fatto, devo dire, un enorme piacere, per un motivo molto semplice che sono riuscito a ricostruire dopo aver sentito questa cosa, e cioè che in alcuni di questi racconti si narra della ribellione contro il sopruso. I protagonisti, o meglio le protagoniste di questa ribellione, sono donne e bambine. Mi piace che venga colto, come dire, un tentativo che io ho fatto di medesimarmi in questo punto di vista di persone che hanno subito un affronto e che non si rassegnano e si ribellano, nel che c'è, secondo me, una parte bella e interessante, come posso dire, del cotè femminile di vedere la vita e di interpretarla. Ma lei ogni tanto dorme, visto le sue tantissime attività? No, perché dormo. Scrive, fa il politico, poi fa l'attore, il magistrato, insomma è una vita molto piena. Sono in aspettativa. È una vita molto piena. È abbastanza intensa. E no? Di tutte queste sue attività qual è quella che le piace di più? Guardi, le rispondo, diciamo, come dire, ridefinendo, perché questo mi aiuta la domanda. Se mi venisse chiesto ne puoi tenere una sola, nel senso devi abbandonare tutto il resto, terrei senz'altro la scrittura. Allora ricordiamo, alle ore 21 questa sera un'occasione per vedere uno scrittore salire sul palco nei panni dell'avvocato Guerrieri per i concerti nel parco, questa rassegna che si apre oggi, Le notti dell'avvocato Guerrieri, Gianrico Carofiglio on tour, prima data di una serie di date estive, e poi anche per chi volesse leggerlo, Non esiste saggezza, edizione Rizzoli. Grazie. Grazie, grazie a voi. Io le dico che ho bisogno di attaccarmi così con l'immaginazione alla vita altrui, ma senza piacere, sa, senza punto interessarmene, anzi, proprio per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa, con prove ed esempi continui a noi stessi, implacabilmente. Perché, caro signore, noi non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è. Ce lo sentiamo tutti qua come un'angoscia nella gola, il gusto della vita che non si soddisfa mai, che non si può mai soddisfare, perché la vita, nell'attimo stesso in cui la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa che non si lascia assaporare. E quello che sentiamo è Vittorio Gassman che legge, anzi che recita Luigi Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca. Beh, insomma, Pirandello ci fa sempre riflettere, e per riflettere ancora di più basta andare al Festival Nazionale Luigi Pirandello, che si apre questa sera a Torino al Teatro Gobetti, ore 19 l'appuntamento, fino al 24 luglio. Questa sera si apre con uno spettacolo particolare, L'amica delle mogli. Sì, Marta è l'amica delle mogli, a cui fornisce preziosi consigli e suggerimenti. È un modello da imitare, ma come sappiamo, noi sappiamo benissimo che poi Pirandello ci maschera qualcosa, c'è sempre qualcosa da scoprire. Buongiorno, buon pomeriggio Giulio Graglia. Buon pomeriggio a te, ciao. Direttore artistico. Allora, sì. Delle repliche dell'Amica delle Mogli questa sera fino al 15 e poi cosa avete in programma? Poi abbiamo in programma, grazie tra l'altro per l'introduzione straordinaria di Vittorio Gassman, questo straordinario uomo del fiore in bocca, edizione televisiva, tra l'altro splendida, è uno dei testi più emblematici appunto di Pirandello. Poi proseguiamo il festival con una serie di grandi interpreti, ci sarà Michele Di Mauro che propone un Enrico IV, quindi una visione dove completamente, diciamo, fantasiosa di Michele, dove ricostruisce un po' un cammino dei grandi attori del Novecento, tra cui anche citazioni a Vittorio Gassman, Benassi, a Ruggero Ruggeri, eccetera eccetera. E quindi anche uno spettacolo divertente con basi musicali, intrecci, suggestioni varie. Poi ci sarà Mariella Lo Giudice, per esempio, del Teatro Stabile di Catania, che ci propone la novella La Rosa, una novella molto bella e emblematica un po' delle tematiche pirandelliane del doppio, ma in maniera disordinata. Beh, la voce di Mario Brusa, una delle voci più belle a livello nazionale, grande voce del doppiaggio, dove ci porterà in Ciaule e la Luna, quindi con tra l'altro un accompagnamento di un'arpa live. Insomma, ci sono tante emozioni. Per finire, a Gipo Farassino, che è il noto chansonnier che ha portato un po', diciamo, il Piemonte in tutta Italia, e Gipo si cimenta con il Taccuino di Coazze, che è questo testo che Pirandello scrisse proprio nella sua permanenza piemontese nel 1901 a Coazze, e lì faremo proprio questa pièce, questo allestimento. Ah, ecco, Giulio, torniamo allo spettacolo di questa sera. Allora, intanto sì. Marta, no? Sembra un po' un personaggio anche di De André, quella che senza mai figli, senza più voglie, si prese, certo, la briga di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. Perché Marta non si è mai sposata, esatto, e crede di aiutare le sue amiche avendo un comportamento altruistico e consigliandole. Natale. Per questo ho citato un po' De André, perché molte mie amiche, ma anche alle volte l'ho fatto anch'io in buona fede, eccetera, si danno consigli quando poi magari però nella propria vita non ci si comporta in modo così lineare, o sbaglio. Sì, hai ragione, quella di Fabrizio De André in realtà è una beghina, ma Marta invece è una signora di grande fascino, e tu sai bene che per una donna essere amica di altre donne è una cosa difficilissima. Quando una donna riesce ad avere fascino anche sulle altre donne è il massimo, è molto più facile averla sugli uomini, non una bella donna, una donna fascinosa sugli uomini, ma addirittura con le donne. Poi certo c'è il risvolto, perché lei si sente realizzata proprio perché riesce a manovrare un po' tutti. Quando questa manovra, questa organizzazione di tutto, questa perfezione di tutto incomincia a incrinarsi, incomincia a indebolirsi, anche lei, le sue certezze, le sue sicurezze si indeboliscono, si inclinano, e purtroppo tutti i personaggi saranno sconfitti, tutte le apparenze saranno sconfitte, perché il mondo delle apparenze appunto è un mondo esteriore che alla prima manchevolezza, alla prima mancanza, al primo respiro sbagliato rischia di cadere, di cedere. E ci sono dei colpi di scena molto forti, no? Sì, sappiamo sì. Che c'è un omicidio, un suicidio, sì. Non vogliamo raccontare di più, perché anche se è un grande classico è giusto che le persone vadano a teatro senza sapere esattamente quello certo. Che succederà. Guarda, è un grande classico in realtà poco fatto, lo scrisse proprio per Marta Abba, il personaggio si chiama Marta anche per questa ragione, ed è un testo poco rappresentato. Sapete che Marta Abba era la musa, no? In un carteggio di 10 anni fino alla morte dal 26 al 36 racconta di questo rapporto struggente di amore platonico nei confronti di questa giovane attrice. Poi in realtà, a parte una ripresa nel 68, quando Torino era diretto da Morteo De Bosio, il Teatro Stabile, e una ripresa ulteriore con Corrado Pani e Malfatti a fine degli anni 80, è un testo poco rappresentato, però di una grandissima attualità. Allora, ricordiamo, alle ore 19 sempre... Giusto, 19, abbiamo un orario british per offrire poi la possibilità di passare la serata in tranquillità. Allora, quindi alle ore 19, poi magari si va a cena dopo, sì, esatto. Al Teatro Gobetti di Torino, questa sì. Grande opportunità, il Festival Nazionale Luigi Pirandello inizia questa sera, termina il 24 luglio, grazie a Giulio Graglia, direttore grazie artistico. Abbiamo sentito tantissime pièce, anche poco rappresentate, come quella di questa sera, L'amica delle mogli. Ciao, ciao Giulio. Ciao a tutti, ciao. Summertime. Sentite la musica che accompagnerà questa sera lo spettacolo, con interprete Rosaria De Cicco a Napoli all'ex asilo Filangieri, Vico Maffei. Rosaria De Cicco che reciterà La moglie ebrea, tratto da Terrore e miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht. Buongiorno Rosaria, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, che cosa interpreti? È uno spettacolo composto, musica, recitazione? Ti accompagnano dei giovani che suonano delle musiche particolari? Beh, in effetti l'idea è stata proprio loro, quella del Circolo Artistico Ensemble. Sono un sestetto composto da pianoforte, clarinetto, due violini, viola e violoncello. Quindi devo dire, una, come avete potuto sentire insomma già da queste poche note, è un accompagnamento tra virgolette importante, perché fa entrare in un'atmosfera lontana, ma neanche poi troppo. Perché? Perché in realtà le musiche, che sono poi di Mahler, di Kurt Weill, di Prokofiev e alcune musiche di autori ebraici, accompagnano e si alternano come hai detto tu, alla moglie ebrea, che in realtà è uno dei quadri di Terrore e Miseria del Terzo Reich che Brecht scrisse e che purtroppo come testo è introvabile ormai. Io vorrei fare l'appello a Einaudi di ripubblicarlo, perché ognuno che vede, che ascolta il monologo, lo dice: ma dove lo posso trovare? Perché è veramente molto, insomma, Brecht ovviamente è Brecht, ma insomma è particolarmente bello questo monologo, che racconta di una donna che nel 1935 a Francoforte decide di autodeportarsi in qualche modo, di lasciare il marito, perché altrimenti lei sentiva, aveva proprio questa sensazione sulla sua pelle giorno dopo giorno di come le cose stessero cambiando, e che da signora borghese lei diventasse un affare scomodo per il marito, che poi diventerà a sua volta un SS, quindi è una cosa terribile, in un altro dei quadri, e quindi decide di lasciarlo, quindi col dolore, la rabbia, la tenerezza, la rassegnazione, e c'è in questo monologo, che è composto di alcune telefonate che lei fa di saluto e poi di prove, sai, come quelle che facciamo davanti allo specchio, provo adesso a dirglielo col marito quando non c'è, e poi il dialogo col marito. E quindi è un crescendo in un brevissimo spazio di tempo, che è quello di questo monologo, della disperazione, ma anche della sensazione di grande coraggio che si ha da parte di questa donna. In realtà poi c'è anche, abbiamo deciso con i musicisti questa volta di mettere anche un altro brano che si chiama Deportazione, che invece è di un'autrice contemporanea, che racconta di come lo possiamo vedere oggi tutto quello che è successo. È un ricordo del 16 ottobre, della deportazione del ghetto, ed è una ragazza, una donna in carriera di oggi, che però sente, ricordando che oggi, caso strano, il 16 ottobre, cioè insomma il giorno in cui è ambientato questo secondo monologo, 16 ottobre di 60 anni dopo dalla deportazione degli ebrei del ghetto. Del 43? Come? Del 43? Del 43, sì, e quindi siamo più di 60 anni dopo, perché è stato scritto l'anno scorso questo monologo, e sente come tutto ciò è rimasto dentro di noi, soprattutto dentro ogni romano, perché c'è questa lapide fuori al ghetto, insomma, la sinagoga, insomma, la deportazione degli ebrei di Roma. Senti, Rosaria, allora, questo, La moglie ebrea e deportazione, è all'interno e nell'ambito di una rassegna, il Forum delle Culture, giusto? Dunque, la rassegna si chiama Viaggio di Ritorno, ed è una rassegna fatta da numerose associazioni. C'è stato l'altro giorno Alessandro Haber, che ha letto meravigliosamente, con la sua follia meravigliosa, delle poesie splendide, perché inaugura la sede del Forum delle Culture, che si trova nell'ex asilo Filangeri, proprio nel cuore del centro storico di Napoli, a San Gregorio Armeno, che tutti conoscono ovviamente perché è la strada dei presepi, ed è diciamo l'inizio, sono i prodromi di quello che nel 2013 sarà il Forum delle Culture a Napoli, che quest'anno si svolge, il Forum delle Culture si svolge ogni 3 anni, quest'anno la sede è Valparaiso, dove Napoli porterà delle anteprime. E questo viaggio di ritorno, questa rassegna, è invece una rassegna che prepara i napoletani, e non solo, a quella, l'esperienza meravigliosa e straordinaria che è il Forum delle Culture, e che durerà 3 anni fino al 2013. E quindi queste sono tutti saggi, tutte anteprime. Allora, ricordiamo, La moglie ebrea con Rosaria De Cicco e i musicisti del Circolo Artistico Ensemble. Del Circolo Artistico Ensemble, questa sera ore 21, Napoli, ex asilo Filangeri. Grazie Rosaria. Grazie a voi, arrivederci. E noi l'avevamo promesso, e una promessa fatta, una promessa mantenuta. Festival Nazionale dei Corti Teatrali di Catania, Teatri Riflessi, si è chiuso questo weekend. Direttore Dario D'Agada, chi ha vinto il festival? Buon pomeriggio a tutti. Allora, il vincitore è stato il gruppo dei 5/4 con il corto La Coda. Una rivisitazione di Cervantes Meli, che è un autore siciliano del Settecento, con un pizzico di Moby Dick, un'opera molto bella che ha affascinato tutto il pubblico, anche se la giuria è stata ha dibattuto abbastanza, perché c'erano quattro corti che hanno appassionato molti membri della giuria, quindi non è stato facile decidere il vincitore. Quindi come si chiama di nuovo l'opera che ha vinto? L'opera si chiama La Coda. La Coda, interpretato da? I Cinque Quarti. I Cinque Quarti. Poi gli attori erano Claudio Bondioli e Luca Lo Savio, e per la regia, che è anche autore del testo, Michele Branca. Ringraziamo allora Dario D'Agata, che ha curato il Festival Nazionale dei Corti Teatrali di Catania, che si è chiuso questo weekend. Io poi ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it, che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it, nonché guardare gli appuntamenti di questa sera. Una buona serata a tutti da Elisabetta Fiorito.